questi tre sono dei giocatori e tu devi lavorare con quello che c'hai. O cosa vuoi, solo Pelé, Maradona e Gullit? vabbè, purtroppo è così, dai. Non c'entra a fare. Purtroppo è così. E la Dinamo invece cosa sta facendo? Giocava stasera in cosa? Cos'è? In Champions? Chi? La Dinamo. Mi pare che si è buscato di nuovo sabato, c'era mio cognato di servizio. Che vergogna, c'era un allenatore che gli ha fatto vincere, mi pare, 20 partite consecutive, a Giovanni non vincono il campionato pure, hanno perso in semifinale e ci metti questo, cacchio. Non so se sia bravo, quasi non lo so. Comunque, come è cantato Ghito, ne è messo con tutti. Ah, mi sa che ha giocato la Dinamo, sta giocando con Dashi. La Dinamo sì, sta giocando Dinamo contro Vernel. Nel Sempiate? Sì, no, nel Sempiate è l'allenatore, capito? Il guardialine è Biopreso. E più che nel Sempiate è nel Sempiate. No, Biopreso. Ma cocca, tu non hai mai fatto il video con solo i piatti? Più di una volta, tu Manzano mi davo a Goggia la tricche ballacche. La gente lo fa da bagno? Sì, sì, pongo la gente a bagno e poi si rampo con i serpianti e ricordo scusurata di palestra. Io mi lavo con l'ora, però l'unica cosa dell'ora che rimangono i granelli, un po' mi dà fastidio. Ti tolgo io, amico mio, lo sai, per te faccio queste altre. E d'altanettica. Ma muro su che fai a fare? È andato a mangiare, Claudietto. Quanto mi dispiace per quella radio, cacchio, io dico, Claudietto, non darla in mano a nessuno, non darla a me, cacchio, la data in mano così, cacchio. Una radio che costa una barca di soldi, l'ha pagata una barca di soldi, era troppo contento, me, che cacchio, la data in mano. Sì, no, io a me, mi ci occupo il capinico quando me l'ha bruciata il fulmine. Un bestione con la radio, tu immagina che è ancora più grande del 940, un bestione, a 220, 200 watt, c'è un finale allucinante, una bestia era. Io facevo tutto in HF con quella, senza lineare, senza niente, 200 watt di potenza, P&P, andavo che era una bestia, cazzo, un fulmine mi ha disintegrato tutto, che, per carità, e vabbè, no, non si danno a quella radio. Io la posso dare, ma anche una di queste, la posso dare a chi veramente è capace, diversamente preferisco lasciarla ferma. Sai quanto tempo era il 430 senza quel filtro, perché non c'era nessuno che me la faceva. È capitato, già lo sai che cosa, però con tanto di cappello. Adesso è una radio, capito? Adesso è una radio seria, a posto e tutto, ma c'avevo competenza a battucare la radio, non si tocca la radio se non sei competente, caro mio, altrimenti ci rimetti tutto. Una domanda, la scheda FONEM del 711, se tu la piazzi per dire nel 940, funziona lo stesso? Mai. No? No, c'ha gli attacchi diversi. E nel 440? No, c'ha gli attacchi diversi, vabbè, è diverso il circuito stampato. Ma non è una scheda a cosa, a pettine? Beh, una scheda a pettine, i pettine da dove salgono, non sale il circuito stampato. Mentre quella del 440 la puoi mettere nel 940? Quelle mi sembra che siano uguali, mi sembra, Fabrizio Richiede, mi sembra, non voglio dire una stronzata. Non voglio dirti una stronzata, però quella del 711 ad esempio nel 9, del 440, nel 940 c'ha due piedini diversi, l'avevo provata io. Oh, non è che me la futta assai, perché il 711 se lo devo dare, male non la stacco. Vabbè, cosa se ne faccio? Cosa ne fanno? Già va bene, già andavè, KK. Qua stavo dicendo, non me lo ricordo. Ah, la modulazione è bene va, Roberto. Alla grande, perfetta, non ti avrei detto niente. Cioè, non ti devo dire niente. Luca, ci sei ancora? Cazzo, devo trovare un altro 60. Se me lo rompo le palle alla fine, me lo compro nuovo. Non mi piace la Ronis. Non mi piace esteticamente. È un bellissimo microfono, esce molto bene. Ma esteticamente non mi piace sta cosa flessibile, cazzo. Voglio un altro MC60. Non lo so, 60 è sempre 60, estetica, e poi è bello robusto, niente da dire. A me mi sarebbe piaciuto avere un 85 invece. Quando ce l'avevo l'ho mai chiesto, avevo volato io l'85. No, non mi piacciono, quelli 80-85 non mi piacciono, a flessibile non mi piacciono. Io mi prendo un altro 60 e adesso domani mi chiamo Vittorio e lo sto mandando se lo piglia il culo. Tanto a me mi fa anche lo sconto, se costa 140. 120 euro me lo faccio mandare nuovo dentro la scatola. Era voluto che tu a 140 euro nuovo un MC60. Dove voglio nuovo l'MC60 costa 140 euro più il trasporto. Tu chiama Media Globe, 140 euro più non so se 10 di trasporto o 15 di trasporto. Solo, mi pare troppo poco, ma originale o roba cinese? Ah vabbè, ma cosa fa Media Globe, la roba cinese va. MC60A, ultimo modello, 100 che ho chiamato io, 140 euro più non mi ricordo se ho messo 10 o 15 di spedizione. Nuovo, dentro la scatola, non è il primo che ho preso a Media Globe. E ne ho comprato un MC60, 80, 85, SM20, MD100, MD200, ne ho comprato dei microfoni, sono persone serie, 140 euro più il trasporto, nuovo, non li voglio spendere quei soldi, se lo trovassi da qualcuno anche a 80 euro, 90 euro lo comprerei, però che sia nuovo, buono. Solo le cose nuovo fiammante, a parte che ha dovuto fare la scheda nuova, ma nuovo se tu lo vedi quello di dell'amico nostro. Vabbè, ma è sempre in chiavi barocchetto, però è sempre ghiaccio. Infatti anche l'altro giorno ho detto devo chiamare per vedere com'è la situazione. Ma cazzo, vabbè, ne abbiamo già parlato. Io addirittura ho lasciato via a casa tutto lo baravano, poi. L'ho chiamato oggi stasera, infatti per quello ti volevo dire, ma lo prende lui, non ne vuole sentire. Lo prende quello là, quella persona là, se lo compra? Quello che ce l'ha adesso, se lo tiene, lo prende lui. Poi l'ho chiamato l'amico nostro, gli ho detto tutta la situazione. Ah, quindi anche il microfono? Tutto. Lui stava aspettando a me per fare un altro scambio, però gli ho detto no, non mi interessa. Vai, hai fatto bene, cazzo, qua, prima di fare una cosa, poi ne faccio un'altra. Attenando, se io ti dico un prezzo, ti dico una cosa, ti dico questo è lo scambio e così, punto e basta. Vabbè, gli si lo denga, tanto. Vedrai che quella radio lì saranno molto torna a quella persona per mettergliela a posto, perché se non la usa si va a rovumo questa radio. Speriamo bene, dai. Ma Luca c'è ancora? E già c'è, adesso mi fumo una sigaretta e poi me ne vado a cena. Non ho ancora cenato io. Sì, aspetta un attimo che mi sto preparando la... Cioè poi me ne dimentico, l'antibiotico per domani. Vai Luca, quello che stavo dicendo qua, ma non me ne ammetto più. Non me ne ammetto. È freschetto a casa tua, c'è là. Qui c'è caldo, mi lo sai, col caldo che c'è, mamma mia, sono in mutande io. E a lui, mi è beato. E come mai sei in mutande, brutto zozzone? Perché cazzo, c'ho 40 gradi qua in casa, capito? Mi sono messo in desabillé, mi sono messo ogni freddo. Bravissima, che lontano me. Se vieni da queste parti bisogna avere 8 gradi pure, io ho riscaldamento a palla. Già me lo immagino. Ma come ce l'hai il riscaldamento qua tu? Cosa? Come ce l'hai, a gasolio o a gas? A gas, c'ho la caldaia a gas. Nell'altra stanza del capo dei termosifoni normali, a gas, ultima generazione. Dimmi una cosa, ma c'è il bombolone sottoterra o c'è le bombole? C'è il serbatoio. Quindi c'è il serbatoio, cos'è, interrato o fuori? No, interrato col coperchio, butta in gas. Sì, almeno risparmi qualcosa anziché abbigliare le bombole. Poi se c'è una Monanesa, se c'è caldaia di nuova generazione, già va bene. Della Silver, è nuova, c'ha 2 anni, l'hanno colovata l'altro giorno. Sacchetti me l'ha colovata, signor Carlo, che abita a 200 metri da me, neanche 100 metri. Abita un po' più su, appena su nella collinetta abita, dopo la rotonda, capito, poi sbatti tra, abita lì, è venuto lui direttamente, ma con l'operaio, è venuto lui direttamente, allora di pranzo, quando è salito per andare a pranzo, è passato un attimino, l'ha accesa, l'ha colovata, tutto, ha controllato tutte le spese, tutte le cose, tutto a posto, mi ha firmato il foglio, e pago 90 euro all'anno per la manutenzione. Niente. Nulla è, cazzo. Della Silver è nuovissima, bellissima, che scalda, che meraviglia. Ah, mi ha messo il timer, perché ogni volta devo andare fuori, no? Nell'altra, vabbè, posso attraversare il cammino, però prendo freddo, capito? Allora mi ha detto, aspetta, ti faccio una cosa, mi ha messo il timer col telecomando e schiaccio il telecomando e si accende la caldaia. Hai detto la telecomando? Sì, sì, telecomandata. Telecomandata, omaggio della ditta. Di lusso, no, così è buono. Sì, sì, c'è il timer collegato alla, alla caldaia, capito? Io accendo il timer, fa tac, e si accende. Sì, yeah. Vediamo Antonello, di nuovo a te il mic. Antonio è carica elettrostatica, temporale tu guardi stanotti. Sì, è previsto un bel di acqua oggi, stasera, un bel di acqua. Beh, infatti già mi chiudo tutti gli sportelloni, c'è la Bilianco. E cosa Gianfranco, non l'abbiamo sentito? No, il mio carissimo amico Gianfranco, non l'ho sentito per niente oggi. Deve essere in letargo. No, sono in letargo, lo sai che sono sempre impegnato. Beh. E questa è una stazione seria. Controlla tutto. Vero Gianfranco? Ah, meglio la solita scelta in agguato. Vabbè. E beh Gianfranco, tutto a posto? Come sempre, tutto a posto e niente in ordine. Tanto per cambiare. E tu cosa mi dici? Non hai giocato, non hai fatto niente? Stai poltrendo? Ma sto aspettando una risposta alle domande, già lo sa Claudio, poi già vediamo, non lo posso dire qua. Sempre per quella cosa io stavo dicendo, eh. Sempre per quella cosa, però in generale, penso a qualcosa di diverso. Gianfra, grazie. Conta fino a 10, già te lo dico io. Non ti preoccupare. No, già ho capito. No, io mi riferivo a quegli esperimenti. Quando devi andare, Robè, a fare quella visita? Quando è il? Domani 11.30. Ah, domani 11.30, vabbè. Già ci sarà da lavorare Gianfra. Ho visto tutta quella roba che mi hai messo dentro, e viene di roba. Ma di la verità non ho neanche iniziato. Queste sono le briciole così. Beh, c'è tanta altra roba. Ma va anche collaudata, approvata, testata, verificata, accertata. Una domanda adesso, l'FT8 si può usare qua su queste bande qua? Ma dove? In 27? E 11 metri. Ma chi vuoi che ne ha freghi degli 11 metri? Non sanno neanche che esiste ancora. Pensano che oramai i cibi siano talmente vecchi che sono tutti morti. No, naturalmente ci sono, cioè sarebbe ridicolo andare lì con tutte le altre possibilità che ci sono, però dico c'è qualcuno che l'ha provato. Cazzo, voluto finire con l'FT8, dici? Mamma mia, cazzo. Già sono spariti tutti i radiamatori con questo cazzo di FT8. No, non mi interessa, era soltanto una domanda, perché ho visto quei sistemi che c'ha Gianfranco sono micidiali. Ma Gianfranco è il suo lavoro, è un professionista di quelle cose, dice attiva tutto quello che può attivare, lui c'ha tutto via via computer, lo so, lui parlare di tutto e lui c'ha tutto, non ha problemi, però è chiaro che le piace anche il sistema digitale, lui forse uno dei primi che ha iniziato il sistema digitale a Sassi. Adesso sempre in digitale sto provando un sistema tipo Mercurio. Addirittura? Ho fatto un esperimento e ha avuto successo. Vabbè raga, dai, io mi allontano, che è pronta la cena, e vado un po' perché sono uscito fuori a coprirmi. Dal caldo, al freddo mi sta fregando, la massa ne rivaria, troppo caldo ce l'hai. Ci sentiamo dopo se ci siete, vai Robè. Ehi, hai sentito, dai. Se non ci sono dopo già ci sentiamo domani se coincide, dai. Ok, vai già. Quello non è il freddo, è la vecchiaia. La vecchiaia, oh Claudio. Copriti, e non stare in giro a culo nudo. Hai detto bene, cazzo, mi ho fatto la doccia, poi evidentemente ero leggero. Sono uscito fuori col cane. E mi ha fregato. Dai. Ci sentiamo dopo se ci siete, se no vedete vi salutati e a domani, ciao. Oh, Claudio, non gira a culo nudo, mio che l'hai supposta. No, e avere macchina della ghiaccia, no? Che la bedivella, è Natalino. Mamma mia, su cuoco, ma che è? Io mi tampona subito. No, sotto manda a curto, ti manda. Tu vas di Vugoso, un giochitto. Allaccio. Vabbè, allaccio, tu travagliavi la parola. E allora, gli avverati un paio di gomiti ancora, un paio di santuffi. Adesso ho qua, allora. Già terminò, ciao Gianfranco. Vabbè, Robè, il PC provato là, va alla grande, funziona? Sì, funziona assolutamente, niente da dire. Ho provato con l'altro monitor, io ne ho due di monitor, cioè quello Philips, quello che mi ha dato Claudio, e ne ho comprato un altro da EV, di quelli al mercatino delle Pulci, però 16 in unico, già che funziona anche come TV perché c'ha il sintonizzatore interno, e c'ha due altoparlanti laterali, ti sembra un televisore proprio, là, televisore piccolino, l'ho tenuto acceso un pochettino, poi vado, boom, spento il televisore, che cazzo è successo qua? Si è sciolto l'alimentatore, infatti me ne devo cercare un l'alimentatore all'esterno a 12 volt e non funziona più l'alimentatore. Vuol dire che era già andato. Oh, yeah. E questo è anche meglio perché 16 in uni, quelle cose che abbiamo visto con Gianfranco si vedono molto meglio, c'ha l'altoparlante già incorporato, non c'è bisogno di mettere le casse esterne, che così non ho problemi di spazio, è bellino, mi dai il V, è proprio un televisorino, sarà penso 20 pollici, 21 pollici, in 16 in uni, ed è bellino perché è sottile e non è molto ingombrante. Guarda che quel computer ce l'ha la cassa, non so se hai notato, c'ha l'audio, la cassa dentro c'ha. Non lo so neanche, non l'ho manco visto. Vabbè, se tu vai su YouTube, c'è quella canzone e poi senti l'audio nel case, dal case esce. Non lo so, quando l'abbiamo installato, che c'era Gianfranco, non ho sentito niente, forse era a basso volume. Comunque già funziona, tranquillo, c'è anche l'audio. Andava avanti Gianfranco. Sì, ciao Luca, buonasera. Cosa ti voglio dire, Roberto? Ecco, ma poi l'hai collegato quello, come ti ho detto, quell'affare USB, hai provato se funziona, così non tiene impegnata la scheda del computer per giocare. Tu quella pennina con le, diciamo, 3D, quella che mi hai detto tu, quella che c'è ingresso micro e cuffia, quella lì? Sì, esatto. L'ho accesa io, l'ho messa solo un attimino, poi si è bloccato il monitor e ho spento, poi sono entrato a parlare in radio e non ho continuato. Dai, adesso da domani vediamo un po' se c'ho qualche minuto di tempo in più per farlo. Ok, va bene, così facciamo dei test. Ma sto dimenticando. Ma tu c'hai qualche tipo di antenna per operare, diciamo, molto in basso, però? No, c'ho solo avanti, voglio. C'ho un'antenna, però l'ho smontata e faceva da 1,5 a 30, ma troppo grande e fastidioso. No, io ne devo ricostruire una esclusivamente per le onde lunghe. Solo che non c'ho mai il tempo. Vabbè. Riprendi Luca. Io appaga, vabbè. Piano piano Robè, così poi sistemi il tutto. Per quanto riguarda l'alimentatore, perché non te lo prendi alla GBC. Sì, no, ma già devo prenderlo da qualche parte, adesso vediamo. Ne ho anche un altro di quel radiogoniometro che ha le tensioni regolabili, ce l'ho di computer. Adesso devo vedere solo l'attacco, se corrisponde, perché c'hanno di quegli attacchi, diciamo, una misura un po' particolare, dai, voglio vedere in mezzo alle robe che ho io. Ma ti volevo dire, Gianfra, insomma, mi sono dimenticato, ti stavo dicendo qualcosa, avanti a te. Allora, non sono solo, si dimentica tutto. Io, benvenuto al club. L'antenna della wifi Luca l'ho messa dietro, ne ho tolto quel coso che comanda il mouse senza fili e ne ho messo normale il mouse, sono andato al cinese e l'ho comprato. Vabbè, testate che funzioni, faccia il suo dovere. Poi io avevo portato un computer, praticamente non andava un portatile, accendevo ma andava avvidiato, allora gli ho fatto un lavoretto. Cosa succede? Che adesso si vede, parte benissimo, però arriva a un certo punto che non avvia Windows, se ne va, cioè io lo avvio a Windows, no? Però non va, non parte, adesso se ne va in modalità provvisoria e poi mi fa sempre questa schermata blu, cambiato RAM, cambiato hard disk, nulla, sempre così fa. Della Gianfranco è lui il maestro, vai Gianfranco. Forse c'è qualcuno che può entrare. No, ero distratto. Ministero di Stato, mannaggia, non ho capito la domanda. Orientato io, scusate a tutti, buonasera e orientati, non so più domande. Stai fischiando, salve. Allora Gianfra, mi ho dato questo computer stasera e non andava avviata. Sicuramente è un problema di scheda video, comunque io l'ho sistemato, capito? No, il PC è a posto, l'ha avviata tranquillamente, però non avvia, non va Windows, mi dà questa schermata blu, cambiato RAM, cambiato hard disk, addirittura ho messo anche la mia SSD, che adesso non sto usando il computer, no, lo stesso problema mi fa, non avvia, non so perché. Di no, ma la scheda blu non è una cosa tanto bella. Ma prima era installato il Windows, ha combinato questa cosa dopo che ha fatto qualche modifica. Oh, perché te dicevi si è spento così di botto? Pure non so, boh. Infatti il PC parte tranquillamente dalla videata, è a posto, solo che poi fa questa schermata blu, c'è scritto, vabbè, sono in inglese, poi c'è scritto premere F8, adesso non mi ricordo, comunque. Ho fatto tante prove, cambiate RAM sono buone quelle che ho io. La RAM non è, la disk idem, non so cosa sia, boh. Allora l'ho abbandonato. E quando fa così di norma con la schermata in inglese è per dirti vai sulle modalità di recovery oppure eccetera, perché sta incontrando dei problemi in fase di avvio di Windows, quindi c'è qualcosa di corrotto, qualche file che è andato, o ti fa un'altra installazione o niente, se c'hai roba collegata tipo USB eccetera stacca tutto e fa un avvio proprio semplice, se no è probabile che ti tocchi fare una reinstallazione. No, le ho provate tutte. Comunque sì, ha un problema di scheda video, comunque io l'ho sistemato, però non va. Guarda che è uguale al mio, io ho un Acer. Guarda, un Acer lo stesso, se tu li metti da hard disk parte tranquillamente, non parte, ma comunque mi fa lo stesso problema, invece di, quando tu accendi, no? Deve avviare a Windows, invece no, mi dà un'altra voce e parte da lì. Praticamente da lì se ne va in modalità provvisoria. E poi se io lo faccio avviare a Windows, parte, dopo un po' tu hai messo la schermata blu. Quella schermata blu probabilmente sta capitando perché lui quando va a cercare vede delle cose che non deve vedere. E quindi si incavola e così, c'è poco da fare. C'è un problema di qualche componente che sta rompendo le scatole, può essere anche la scheda video che non se la digerisce. Comunque la schermata blu è sempre sinonimo di qualche cosa a cui Windows non piace, non ce l'ha d'accordo in parole povere. Avanti Robè. Aspetta Robè, avanti San Video ci sei? E prima Robè. Era tutto a fischi però Salvio poco fa. Stavo dicendo, no, io computer non è pane per i miei denti, dai. Faccio altre cose io. Di nuovo Gianfra. Sono cose un po' rognose, a volte ci perdono un po' di tempo. Capito? Soprattutto se sono semplici. Le cose più semplici sono sempre quelle che rompono più le scatole. Però devo dire una cosa, nel computer le parti che si possono rompere sono quelle di audio, video, hard disk e coso, e, come si chiama, per scheda madre, sono quelle cose lì, non c'è altro da rompersi, per cui uno va per esclusione, se non fa per questo ci può essere questo o quell'altro. Quando ti trovi nella macchina invece, soprattutto in ambito meccanico, ci sono una marea e decine, per non dire centinaia di sensori, centralini adesso, prima c'erano una decina, adesso ne arriviamo anche a 50, dipende dalle macchine, poi ci sono una varietà di sensori, basta una fesseria nella catena e ti crea problemi. Purtroppo è così, che ci vuoi fare? E il computer, guarda, le centraline non sono altro che dei computer, quindi siamo sempre lì, non è che hanno un proprio sistema operativo, che si avvia immediatamente, perché praticamente non deve fare un tubo rispetto a un computer che deve fare anche il video, e quindi è così. Saverio, ci sei? Nulla. Cosa stai usando? Il solito Gianfra, il solito baracchino? Sì, quello che ho modificato. Modificato in modo da avere quelle proprietà. Anche Saverio ne aveva uno di presidente poco fa, non so che modello era, sarà Jackson, Herbert o che cosa, e col microfono suo originale andava veramente bene. Poi stava provando questo MB+4+5 e era mezzo partito, c'era qualche massa o qualcosa che fischiava, però con il suo coso stava uscendo veramente bene col suo microfono originale. Adesso sembra che stia uscendo meglio, guardate un po'. Sì, ma sei l'originale adesso. No, adesso c'è il microfono al tavolo. Prova a fare un po' il livello. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stai innescando adesso, no? Non so, aspetta, faccio tu. Ma tra l'altro non lo sa bene, non sei molto più alto di prima, amico, il microfono normale andavi più o meno allo stesso livello microfoni. Guarda, ho abbassato il mic in dall'apparecchio, sto saltando con la baracchina, come va? Stare in bomba non beh. Adesso lontano, va meglio? Si è alzato un po' il livello, però sei un po' rimbombante. Passiamo appena, lo registriamo, ma la radio si sente che è amplificata ora? Sì che si sente, abbassa un peluzzino però, salve. Va bene, così va meglio? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così va benissimo, ok, aspetta, chiediamo anche a Gianfranco che lui è più lontano. L'hai sentito a Saverio, Gianfranco? Sì, lo sento. Ogni tanto innesca, in quest'ultimo mi è sembrato che fosse più decente, ecco. Sto cercando un po' qua di risolvere, di accoppiare questo microfono. Io prima aspetto qua, questo microfono ce l'avevo con l'altro oggetto. E la verità usciva una canonata, e quello avevo anche le modifiche e cose. Poi quel oggetto l'ha fatto innevare, non so per mano di chi, l'ho trovato così tutto strappato rosso. Qualcuno qua in casa, i bambini, non lo so. Non voglio neanche sapere, ma sicuramente ce l'ho, con tutte le modifiche che avevo fatto fare a Cagliari, da Roberto Rapido, tramite Gigi Lucano, e ce l'ho conservato. Adesso ho comprato un altro Jackson all'asta, e il mio intento è di passare le modifiche sopra questo apparecchio che ho acquistato all'asta. Salvi, fa una cosa, prova a fare così, metti un pezzettino di filo, lo agganci sotto a una di quelle viti che hai al microfono e l'altro al piede del baracchino, vedi se ti innesca, perché se ti innesca è proprio una di massa. Ma è quello che sto pensando io, c'è poco filo di massa collegato. Comunque ho notato che c'aveva il braccio che oscillava dove c'è la capsula, il braccio del microfono. Lo stretto è già migliorato parecchio, perché prima tutti innescava anche con il coso chiuso. E prova a fare così, un filo, lo agganci sotto alla vite e poi al piede del baracchino. Prova a vedere, ora la vite del baracchino, per vedere se tu lo fa. Avanti Robert. Ehi, Amalecio, come ti sta arrivando la modulazione lì? Ma va bene, va bene. Allora, fammi una registrazione che voglio vedere se è amplificata. Sì, che è amplificata, aspetta. Sì, sapete, va benissimo, non toccare niente, va benissimo. Va bene, ora la lascio così, là, poi cerchiamo di migliorarla. Magari anche l'antenna c'è stazionaria e dunque fluisce. Devo provare uno strumento, qualche cosa. Mi ha puffato il vattami. Vai, sapete, buon passaggio. No, Lucariello, come mi ascolti, come questa radio, questa modulazione, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, cambia. E se posso alzare appena presto, i tonici li ho chiusi, ce li ha zero, Roberto. Ah, cioè è un 5, non è un 4? Sì, è un 5 questo qui. Comandata. Prova a fare, adesso ce li hai tutti chiusi i toni, salve. Sì, sono a zero ora i toni, non so, devo alzarli appena. Fammi un passaggio, tutto a manetta, mi dici questo è a zero e poi tutto a manetta, vediamo cosa cambia. Allora, questo qui è a zero, sono i toni a zero chiusi. Poi a manetta... No, c'è un innesco fortissimo. Migliora la modulazione, però c'è un innesco fortissimo. Probabilmente dovresti sollevare i toni e abbassare il livello microfono. No, non va bene, torna tutto indietro, lascia stare. Metti tutto come era prima. Va bene, i toni li ho abbassati. No, stai ancora innescando, non so cosa hai toccato. Metti tutto come era prima all'inizio. Guarda, secondo me è il filo di massa, guarda, io devo aumentare la massa. Perché questo ritroppo non si fa ammalettone, si fa con la già fare tutti la gente. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va bene? Sì, così va bene. Già mi ricordo che uscivi una bomba con il microfono a tavolo tu, anni fa, quando ti sentivo. Lascia, per il momento lascia tutto così, perché può essere come hai detto tu anche all'antenna, che c'è qualche rosso alto, ti innesca per quello quando sollevi un pochettino, non lo so cosa sta combinando. Ok, Gianfranco e Mike. Gianfranco. Ah, sì, sì, roba, stavo controllando una cosa. Ascolta, puoi dare un controllo su un sistema intercom speciale? Ti passo una linea, ok. Qua, su questo canale? Cosa? Su questo canale stai dicendo? Sì, sì, per un controllo di comprensibilità. Sei chiaro, Sì, sì, è stato brevissimo. Ciao a tutti, Anico Gianfranco, scusami, poc'anzi, sono dimenticato, non ce l'hai ascoltato per la primiera. Ma che, mi ha dimenticato qualcosa. E di radio cosa ti è rimasto, Salve? C'aveva anche un base, o sbaglio tu? No, va bene, ho avuto i divieti di fare la qualche parte, però no, non so più niente. Anzi, è bugia. Fatto la mamma l'altro giorno, per cercare, mi ricordavo che avevo qualche cosa a livello di apparecchi, di cavi, di tubi, ho lasciato un po' per un mobile, mi è uscito un apparecchio d'epoca, un coso portatile, poi mi è uscito un Intec MF20, non so di cosa, digitale, e una decina di microfoni, cablaggi vari, e vabbè. No, ma che comunque là quando sei in mezzo si potrebbe dirgli qualcosa potente per dirgli. E adesso vediamo Gianfranco se ha sistemato. Ci sei Gianfranco? Sì, ho sistemato, credo. Intercom netto. Vediamo cosa succede. Dimmi se sei tutto chiaro oppure sei molto disturbato. Vado. Aspetta, ho fatto un errore di dottore. Primo passaggio, è andato bene, poi la voce quando hai parlato hai saturato un po'. Sì, in effetti sì. Ah, perché i sistemi sono complicati. Il problema è sempre ricordarsene come funziona. Stai trasmettendo dati tu? No, è un ponte. Salve, quanto ti è venuto all'altra quel micro, quell'altro baracchino? 115 spedito, ma è verginello, è bello fiammante, guardate tutto, è andato tutto, magari sai dov'è, lo puoi prendere il pacco, e invece grazie a Dio ho fatto un ultimo affare, è perfetto, perfetto. L'hanno combattuto o da solo l'hai preso? No. Non si è capito niente, Salve, tutto sembra un corno, fa no, l'ho sentito anch'io, adesso c'ho il mic originale. Ah, questa è bella la radio, pulita, la tua. Stavo dicendo, praticamente mi è arrivato un messaggio, un coso da eBay, mi stavo addormentando, perché pure la sera dovevo andare a lavorare. E mi ha detto, Saverio, manca solo un'ora per l'altra, fa la tua offerta. E ho detto, va, ce la faccio l'offerta. E gli ho messo il mio posto. Mi sveglio alle 4, l'altra finiva alle 4.25. E scadeva, no, e la mia sveglia era alle 16.30. Sono svegliato, vado il cellulare. Complimenti Saverio, ti sei aggiudicato il presidente Jackson a 115 euro. Poi c'era il coupon, quindi non ho pagato la spedizione, è venuta gratuita. Ho preso l'apparecchio, 115 euro, spedizione gratuita. Con coupon ho compensato. No, ma sono delle belle radio, sono molto ricercate, chi ce l'ha se le tiene e se le devono vendere se le fanno pagare abbastanza. Ok, Gianfra, pronti siamo. Sì, ormai ha chiamato a me. Sì, vorrei fare altre prove. Sì, ho dovuto cambiare la cosa perché era un po' incasinata, adesso va, la ripristino, vediamo un po', devi dare un controllo di come la qualità audio, non a me però, aspetta, collego, via. Amplificata, più forte della, dell'audio tour, leggermente un po' troppo alta, però già si capisce bene. E la CB di Roma? Ma erano in 27, cioè in AM o in banda laterale? No, in AM, 27-300 sono. Perché a Roma di lì sono tutti in banda laterale, c'è quello, la stazione Roma 4, non mi ricordo, io li ascolto qualche volta. Sì, sono tutti a parlare di cose strane. Ehi, vabbè, sì, io adesso mi devo allontanare, dai, magari ci sentiamo domani, sono anche un po' stanco, ci sono un poco alluvionato, dai. Ok, ciao Salvedio, fatti sentire più spesso, dopo tanti anni ci siamo risentiti, e sistemati l'antenna, così qualcuno magari che avrà difficoltà riuscirà a sistemare tutto. Ciao Gianfranco, magari domani se coincide facciamo quelle prove che dobbiamo fare, e ciao Luca ed eventuali qua amici qua su canale 10. Io chiudo le conversazioni, ciao ciao. Ciao Roberto, alla prossima. Ok, non mi ero accorto che era le 9, ero convinto che fosse le 8, vabbè, ci sentiamo Roberto alle prossime, anch'io non la sbaglio, mi è saltato l'orario, e c'è anche Luca e c'è anche Saverio, speriamo che riesca a sistemare il tutto. Ok, riprendi Luca per il finale. Ehi, ciao Gianfranco, alla prossima, avanti Salve. Ciao, ciao Roberto Quadrato, perché per me è stato piacere dopo un po' di tempo in radio, poi siamo vicini per ora a lavoro e niente, dai, vedrò di migliorare un po' il tutto, per adesso stiamo cominciando. Il discorso mio è che io quando voi siete in radio io sto lavorando, e viceversa, magari quando io potrei essere in radio non c'è nessuno, quindi c'è un po' critica la cosa, però la passione c'è sempre, mi è rinata quando io mi sto riorganizzando, poi si vedrà. Ok, di nuovo. Luca, adesso ascolto quest'audio, vedremo come ci arrivo di radio, se si viene più e sono il microfono quello là, o questo qua, questo è l'originale, con questo non ci sono problemi. Ma chi che la maletta non innesta, devo rivederlo questo microfono, ma è roba di microfono, capisci, poca massa, perché l'ho visto, il signore di massa è molto molto sottile, io l'aumento con la massa per tranquillo che non innesta più. Iaia. No Luca, non mi piace per niente, è mezzo innestante, è l'occhio, è paratologia, fammi un audio col microfono originale invece. Vai. No, non vuole sentirla, la verità è molto malattolosa. Quella quando ho modulato con l'altro Jackson, con questo microfono ci fa una canonata, aveva proprio una modulazione potente, era forte, forte, non mi piace. Oh Luca, così a occhio e croce mi sembra molto migliore col microfono originale per il momento, poi lo miglioreremo. Sì, vabbè. Sai, dovrei avere qualche causa di quei telefoni della Telecom, quelli bianchi. Se metti quella cambia. Io ho quella lì la capsula adesso, l'MP4. No, ma non è questione di capsula, ma te lo ricordi come usciva forte, beh, la radio era bella corposa, potente. No, è proprio, guarda, fidati, adesso domani se trovo del tempo. Trovo, cerco di sistemare, stato non c'era nessuno in radio quando io faccio queste prove, mi metterò in via, metto le cuffie, qualche cosa funziona troppo, perché è troppo strano, non funziona, non mi va bene, non mi piace, sono troppo le cuffie. Sì, io adesso vado a mangiare, Luca, vado a mangiare, a caricare le batterie, tu sicuramente avrai già mangiato. E si conferma. Sì, ho mangiato un pezzo di pane, sa, che non avevo fame. E poi la notte è meglio che mangio poco, là. Forse una marina mi abbuffo troppo. Cazzo, mica hai preso 83 kg, mi. Cotennone. No, io adesso mangio bene, ti mangio per il fame. Mangio, ho fatto il pesce in agliata, al sugo, buono, di lusso. E poi ho fatto un bucatino, sono nel burro, sono rosa, anche quelli a volo. Adesso vado al cortile. Se ci sei dopo ci facciamo due piatti. Se qualcun altro, se trovo alcuni. Ieri con Claudio l'ho tirata fino alle 10 e qualcosa. Sapete, sono mi addormento che sono dalle 6 sveglio. Poi mi sono messo a riparare un computer e poi vabbè, alla fine l'ho sistemato da una parte ma lo guardo all'altra, non so cosa gli abbia preso. E niente, là. Quindi sono qua. Spero che mi addormenti, anche se vuoi. Sì, una volta mi pongo dentro l'oretto, io sono confuntito. Io sono per il fame adesso vado a mangiare qualcosa, se no non si può dire, tirando maggior fame non comprendo più nulla. Vado a mangiare, dai, saluti a eventuali ascoltori, a dopo, io penso una 20 minuti, che sono 4 ore, di mangiare pure, fare altre due schiacciatine importanti le facciamo, se qualcuno, ok, dai Luca, a dopo. Sì, va tranquillo, se salvi a dopo, ciao, buona cena. 10 Tanti. Ciao, mi dici se tu sono di nuovo cortesemente? Un po' la radio distorce, segnale a bomba, però la radio forse se abbassi appena l'amplificazione si sente meglio. Così come va? Così un po' meglio. Ma quindi mi senti amplificato o no? Ti sento, però è troppo amplificato e quindi un po' distorce. Che strano. Va bene, dai, faccio un'altra modifica e poi magari ci sentiamo. Sicuramente il mic, perché vibra, capito, sul finale della voce anche. Sì, va bene. Parlo comunque da questa parte in ascolto, e se hai bisogno anche dopo. Adesso faccio un'altra prova. Beh, Carlo. Antone, hai ricevuto quella chiamata? No, la verità non l'ho ricevuta perché sono sceso da mia sorella, più che altro, capito? E quindi non ho guardato niente. E vabbè, comunque sia, limite, se vuoi passare domani ti do quell'aggeggio domani, così te lo piazzi, no? Ascolta, facciamo così. Domani io intorno a mezzogiorno rientro a Sassari, tanto faccio via Milano, rientrando da Alghero passo lì davanti a casa tua, al limite ti faccio una chiamata su questo canale, magari ti chiamo anche un attimino prima, così ti do anche il tempo, magari ci beviamo un caffè, un aperitivo al limite. Beh, vabbè, come vuoi tu. Vabbè, ti lo so al telefono, già lo sai, il numero te lo dato, mi sembra di averlo dato, quindi non c'è problema. Così viene tu, ti pigli quell'aggeggio e sei a posto. Se lo passi adesso, non so, come vuoi tu. Guarda, io domani mattina attacco a lavoro alle 5, quindi sì, mi sono messo già in pigiama praticamente, perché massimo alle 10 me ne vado a letto, perché alle 5 devo essere ad Alghero e quindi esco alle 4:20 la mattina e domani dopodomani faccio questi orari e quindi verso mezzogiorno rientro, però mezzogiorno più o meno esatto dovrei essere a Sassari, quindi ti faccio chiamata. Dopo, adesso, siccome me lo sono segnato anche su WhatsApp, ti mando un messaggino su WhatsApp, se ho scritto il numero giusto dovrebbe essere, ti mando ok su WhatsApp, se lo leggi. Vabbè, non c'è problema per quello, là, non ti preoccupare, già è qua di fronte a me, nel caso... Mi fai lo squillo, poi scendo giù e ci vediamo da Andrea, quello che è. non c'è problema. Oppure a Kuwait, come piace a te. Ti va bene anche da Kuwait. Tonino, il gestore, è un mio amico paesano di Bonorra, però se non vuoi allontanarti da là è uguale, per me non ci sono problemi, tanto sono con la macchina. Allontanarmi che cosa? Di 20 metri? Non cambia nulla, non ti preoccupare. Vai lì da Tonino alla Kuwait, al bar. Aspetta un secondo. Stavo guardando. Sì. Questa è la chiamata persa, 333 e poi ho capito. Quindi non c'è problema, no? Bene, bene Meda, dai, già ci sentiamo domani. Io prima ero all'ascolto, poi mi hanno chiamato per la cena e quindi ho dovuto neanche salutare, quindi tra cenare e sparecchiare, mettermi un po' comodo. Adesso c'ho così un attimino e rimango qua in ascolto. Non so se c'è qualcun altro su 10 che vuole entrare. Boh, questo non te lo so dire, ma comunque sì, vabbè, io te lo... Te l'ho messo da parte con l'aggeggio, quindi domani mattina quando ci vediamo te lo do, così te lo piazzi in macchina e sei a posto. E poi mi dici quanto ti devo dare domani. Una bevuta di birra, ci dici, mi devi dare. Cosa mi devi dare? Bah. Per quello allora non c'è nessun problema, e ce la beviamo anche più di una. Non ti preoccupare per quello. Già è qua, non fugge, non ti preoccupare. Yeah, bene Mela, come ti sto arrivando adesso di segnale? 9:20, sera di 5. Va bene che praticamente siamo vicino, adesso sto abbassando per vedere il watt, adesso di meno in questo momento. Appena di meno, sì. Adesso l'ho messo con 3 watt. E vabbè, io sto scendo con 15 in pratica, là. Quindi figurati tu. Io me ne devo piazzare uno in macchina, piccolino. Ne ho trovato uno con un prezzo stracciato praticamente, ed è un President Bill nuovo di zecca e mi dovrebbe arrivare domani o dopodomani al massimo, ed è proprio, sta nel palmo della mano, è ovviamente un 4 watt, poi vedo un po' se si può fare qualcosa per tirargli su un po' il collo, ma con quelle apparecchiature piccole non credo si possa fare tanto, ma giusto per averlo lì, così non sto a toglierlo, collegare il portatilino, capito? Collego un'antenna stereo e baracchino tutto insieme, capito? Visto, approfitto, c'è il buco, riuscirò, immagino, a sistemare tutto bene. Vabbè. Se è piccolino, già va bene. Il discorso è quello, basta che funzioni bene, il discorso è che faccia le sue cose, l'apparecchio va bene, anche se piccolo, cosa ti posso dire, 40 cm, 60, tipo portatile, va bene lo stesso. Ma averlo fisso è meglio, perché riesco a sistemarlo così nel cassetto della macchina, così quando chiudo non si vede niente, capito? Quello è piccolissimo, mentre invece gli altri da auto non mi ci stanno, io non è che ho una macchina grossissima, per cui lo spazio è quello che è. Ho capito, no, io la parte che ho fatto io era piccola, in verità, però... Non mi è mai piaciuta la verità, e quindi l'ho dato in prestito a un amico che lo sta usando più che altro in macchina per andare così a lavorare, cosa del genere, gli ho prestato io. Quello è anche un buio addirittura, figurati tu. A me lo usa lui, mica lo uso io, perché a me vedere un apparato del genere non mi è mai piaciuto, la verità. Fino a un certo punto, ne usa due e va a fanculo. ho capito, basta che comunque con queste radio siamo sempre manipolando, scambiando, e il mondo della CB è sempre stato così, o regolando antenne. Io adesso la mia, quella che ho sul tetto, l'ho invertita dalla polarizzazione orizzontale, l'ho messa in verticale, va molto meglio anche per i collegamenti fuori Sassari. Adesso riesco a sentire Sorso, Porto Torres, Muro, Sosilo senza problemi. Invece la zona di Sorso e Porto Torres li sentivo a fatica proprio. Abbastanza, fare le modifiche a volte, visto, non ci vuole molto. E sono te, togli quella boomerang di lì e ci metti una bella Grand Play, una 5 ottavi, una Ringo, quello che è, e sei a posto. Costa poco e rende. L'altro giorno parlavo con Claudio e quella J-Pol 27 è veramente una buona antenna, mi sa che ce lo faccio un pensierino e mi piazzo quella, anche se 8 metri, se la piazzo su penso che con quella arrivo ancora più lontano. Beh, una volta si usava un levanto, ma vabbè, comunque sì, adesso si usa io questa J-Pol non la conosco, la verità, comunque sia. Non so se va di bene oppure se va di male, questo non te lo so dire, ma comunque sia, provare non costa niente, piazzala, se non ti soddisfa ce la butti in terra e prendi c'è il cassonetto più vicino di casa e ce la lampi. Esatto, tanto poi alla fine è così, provi una, provi l'altra, poi alla fine devi deciderti e metterne una buona e lasciarla lì finché muore in maniera naturale, sperando che ti duri almeno 7-8 anni. Quello sì, quello c'ha ragione. Perché se no è anche una scocciatura sempre salire sul tetto e regolare, cambiare antenna e poi devi trovare la posizione sua, e questo e quella senza radiale e quella con radiale, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Comunque leggendo i vari insomma format eccetera, quella che mi diceva Claudio, la J-Pol 27 è una 7 ottavi e diciamo dovrebbe andare bene, addirittura lui mi ha detto che l'ha piazzata neanche in alto, a livello di terra 2-3 metri e qua diciamo una super bomba, lui mi arriva, va bene che è anche più in alto di me, però è forte, lo sento dappertutto io lui. Dipende, ognuno, vabbè, installa un'antenna sua, il discorso è quello. Controllati, cioè la migliore antenna che c'è, la verità è la Super Lem, è la migliore che c'è, come antenna, c'ha 16 radiali, 5 ottavi d'onda, quindi a voglia, una volta installata non restacchi più, muori lì, te lo sto dicendo io. Ho capito, mi parlavano anche di quella senza radiali, adesso non mi ricordo qual è, mi sa che si può anche autocostruire, anche se io sono per prenderla nuova. Vabbè, quello è un discorso diverso, ma fregatele, quello è un discorso diverso. Perché le Mantova diciamo ormai forse qualcosa già non si trova più, la 5 mi sa che c'è adesso come versione di Mantova. Prova avanti. Buonasera Fabrizio. Ciao, buonasera. No, poco fa avevo problemi perché ero pieno di onde stazionarie. Adesso non ce n'è più. Dimmi come sto uscendo, non è amplificato, è l'MC50 è questo. Sei uscito bene. Però non è amplificata come l'MC60, giusto? Quello sì. Va bene, dai, vi lascio al vostro questore che devo controllare ancora. No, voglio fare una modifica, prima lo stavo, dovevo rimettere in linea. Va bene, dai. Va bene Fabrizio, adesso va bene. OK. Un Comunque Fabio, se c'hai qualche 680 140 fammelo sapere, come si deve però, mi no di quelli di Bertola. Avanti, ma sbagliato. Sì che perché non è mica sbagliato, no, avanti. Ciao Antonè, salutoni. Ok, salutoni, ben sentito Antonè. Arlo, zona Lune Sole, qua mi arrivi a bomboletta allora. Tiago 9 più 20 qua, radio 5. Ti esce bene a Puglia. Ebbene Antonè, come stai andando? A me non ne hai problemi da Osilo, io lo vedo dal terrazzo, da su. Ossi idem, io vedo Ossi, Tissi, tutto quanto, da sopra, dove ho l'antenna si vedono tutti i paesi, perfino Porto Torres, allora già vai abbastanza bene. Qua in linea d'aria, insomma, ci vediamo a vista da qua. Bene, va benissimo qua, senza nessun problema da me, figuriamoci con gli altri lo stesso, penso che da Ossi non hai problemi perché rimane anche più alto rispetto a Sassari e la zona è abbastanza, diciamo, libera, non ci sono rilievi e cose del genere. Allora io ero nella tua stessa situazione sino a una settimana fa perché avevo il dipolo messo in orizzontale e poi ho seguito vari consigli, insomma l'ho girato, l'ho messo in verticale, adesso Porto Torres e Sorso li sento mentre prima avevo molte difficoltà. No, è autocostruito, non l'ho autocostruito, l'avevo comprato così, ma ce l'avevo almeno 20 anni buttato, è un SD27 dell'Assirio che lo fanno da una vita e si può mettere in tutte e due le polarizzazioni, è in alluminio vuoto, è abbastanza leggero e in totale è lungo 5,25 metri, qualcosa del genere. Ho capito, io adesso la tengo un pochino, come arriva la bella stagione penso di sostituirla però come antenna. Dimmi tutto, sono qua, non c'è problema, sono qua a casa. Allora adesso mi viene male, cazzo, di parlare nel salto, la verità, perché sono una bega, non ne parlo, ma comunque di a dire in culo, chiama quello. È stato pure Antonio. Cosa vuoi di più? Ti va bene, a voglia, va, avanza. Adesso ho antenne ottime. E no, una buona antenna, perché esce veramente bene, la verità, comunque sia. È meglio così, era ora, almeno sei tranquillo. Non è come tesa mia, la mia non ha bobina, non ha niente, ci passi un panno ed è a posto. Ora ringo, ora mando, ma dove sono le cose? Vabbè, di solito la mando va così, si sigilla in pratica, capito? L'ultimo modello si sigilla perché è fatta così. Lo stesso che i materiali sono ottimi, ottimi materiali, e quella è la cosa importante, se no effetto incollaggio e poi la butti via. Santiago 8 più 30, no, è rimasto uguale il segnale. Secondo me si è abbassato. Sì, aspetta, adesso dovrebbe esserci, appunto, adesso si è come prima. Ok, aspetta che regolo un attimino una cosa qua, me ne sono dimenticato. Allora aspetta, allora com'è la storia? No, aspetta, scusami un attimo. Allora aspetta, così poi neanche a fancucchia. Dovrebbe esserci così, sì, vediamo un po'. Oh, guarda, così aumentando sta, sì, dovrebbe aumentare un bel po' adesso, Adesso sì, adesso si è aumentato di colpo, 9 più 30. Aspettate un attimo, sono un attimino al telefono. Beh, Pomponio, tu l'hai visto la variazione di potenza? Antonello, Barracuda, ci sei ancora? Sono qua, dimmi tutto. Devo andare da poco sono andato, dimmi tutto. Niente, ero con Antonello Di Ossi, però si è allontanato un attimo e quindi mi sa che no.